Si va allora, eh? Si va? Sì. Vai. Quando si va? Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento per la serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo in via Isidoro a Montevarchi. Una nuova puntata Fumino, quest'oggi parliamo di una realtà calcistica che rappresenta la seconda squadra di Montevarchi città, perché poi spiegheremo il motivo per cui specifichiamo questa cosa. In regia con noi abbiamo Quentin Tarantino e quindi si tratterà di una puntata un po' pulp. Presentaci i nostri ospiti. Hai detto benissimo, una puntata pulp stasera, il suo regista ne è la prova. E pulp perché parliamo appunto della seconda squadra, della seconda realtà cittadina di Montevarchi, e questo è un dato di fatto da quando una comunità molto coesa e molto importante all'interno del tessuto cittadino ha deciso di iscriversi in un campionato FIGC dopo svariati anni di campionati amatoriali, e di conseguenza è diventata la seconda squadra di Montevarchi, vale a dire il nostro Espanyol. Ma basta con i preamboli, benvenuti a Graziano e Matteo del Calcio Pestello. Buonasera a tutti, sono Graziano Dini, presidente del Calcio Pestello, dove ci siamo messi in ballo dopo diversi anni di aspiri di calcio amatoriale. Diciamo, siamo pronti per poter vedere come va questa cosa, che per noi è nuova. Siamo felicissimi, siamo contenti di quello che stiamo facendo. I ragazzi rispondono tutti al lavoro, quelli che stanno facendo, dove ognuno ha i suoi compiti. Siamo un gruppo di persone già da 10-11 anni che siamo insieme, e dove c'è questi ragazzi che ci danno una forte mano, che ci aiutano apposta per inserirsi nel meglio possibile, per dire anche sulle iscrizioni, sulla cosa burocrazia, che ce n'è tantissima. Abbiamo un segretario dove è qui accanto a me, Monanni Matteo, che è una grossa spalla forte per noi, che ci ha dato una grossissima mano, perché veramente con tutte le domande, con tutte le burocrazie che c'è tra gli uffici, ne siamo venuti fuori benissimo. Siamo soddisfatti di quello per ora si sta svolgendo l'attività, i risultati incominciano a venire, siamo contenti. Siete contenti, perfetto. Allora, continuiamo appunto il nostro volo alla ricerca della montevarchinità, perché per informazione così proprio en passant, questa trasmissione nasce con lo scopo della ricerca della montevarchinità, che per secondo noi abita all'interno dello stadio Brilliperi, e trattandosi il Calcio Pestello, pur non giocando al Brilliperi, comunque una realtà calcistica cittadina, passerei subito ad una domanda tecnica da rivolgere al segretario che è qui presente, non vede l'ora di parlare con noi. Bene Matteo, appunto il presidente Graziano ci ha appena accennato delle difficoltà burocratiche. Bene, una cosa che non conosciamo noi e probabilmente anche i nostri ascoltatori è questa: che tipo di differenze ci sono fra iscrivere una squadra ad un campionato amatoriale rispetto ad iscriverla ad un campionato FIGC? Buonasera a tutti, innanzitutto, è molteplici, a partire dal fatto che una società, per essere iscritta al campionato FIGC, ha bisogno del suo statuto, di costituirsi in un'associazione, e quindi le prime difficoltà che ci siamo trovati davanti fin da luglio era l'agenzia delle entrate, molto temuta. Non è una difficoltà da poco, nel senso. No, per niente, dove tutto va depositato, ma anche se si chiama agenzia delle entrate non si paga fisicamente lì, sembra un po' un paradosso, però ci siamo abituati a questo. Quindi questa è la prima tappa. Secondo, capire un po' come gira, ecco, il fumo delle altre attività, perché la FIGC si scompone poi nei riferimenti regionali a Firenze o nelle delegazioni poi provinciali come su Arezzo, e quindi capire dove e cosa fare e parlare con chi. Però devo dire, ci è voluto un po' di tempo, però per grado siamo riusciti a fare tutto, a partire dal pagamento dell'iscrizione e sostanzialmente poi il tesseramento dei giocatori. Ci stiamo evolvendo tutto ora sulle piattaforme online, per cui insomma devo dire che anche la federazione muove i suoi passi e adesso dovremmo essere a posto a livello di adempimenti burocratici. Tra posti dovrebbe aprire la finestra del mercato magari per qualche giocatore e nulla, però insomma tutto scorre regolare, siamo anche molto contenti in termini anche di quello che viene offerto e quello che abbiamo corrisposto. Collegandomi ancora a questa domanda, una domanda per il presidente: il calcio Pestello, quando militava nei campionati amatoriali, era una grande comunità che portava avanti le cose che più o meno nei campionati amatoriali è canonico fare, come è canonico fare. Ma questo stile, venendo a volte in contatto con la vostra nuova realtà, mi è sembrato di ritrovarlo anche adesso che comunque fate un campionato FIGC. Come vi trovate con il vostro approccio, diciamo, di comunità coesa e per fare calcio con una certa mentalità pur trasportata in un campionato FIGC? Avete incontrato difficoltà oppure in questi primi mesi di vita da FIGC le cose stanno andando bene come andavano prima? Sì, diciamo che vanno nella maniera giusta come si pensava noi. Non è che essere entrati nel campo FIGC che il Pestello, siccome vinceva sul campo amatoriale, bisognava fare, come si può dire, di già subito la prima squadra a poter vincere il campionato. No, noi siamo consapevoli di quello, delle nostre forze che abbiamo. Abbiamo dei ragazzi molto validi, dove è un gruppo, tutti i ragazzi del posto sarebbero tutti del Pestello. Noi, il nostro obiettivo è quello là, di prendere tutti i ragazzi delle riunioni, praticamente il Pestello. E l'approccio all'inizio siamo partiti sulla Coppa, siamo stati bravi la prima partita, abbiamo vinto 4-2 con il Quarrata, che ci siamo un po' galvanizzati, si può dire, no? E però dopo, all'uscita delle prime di campionato, si pensava di fare cose magari e non siamo andati con il piede giusto, si può dire. Cioè, niente, ora ci stiamo riprendendo, siamo nella strada giusta, e in cui che le cose, si spera, vadano sempre migliorando, perché i ragazzi hanno visto, per dire, fra il calcio amatoriale e la FIGC c'è qualcosa di differenza, c'è, perché se no le categorie non sarebbero terza, seconda, prima, selezionate così, sicché un qualcosa ci deve essere per forza. Ci siamo rimessi con l'allenatore, con lo staff, che sempre sul pezzo, perché l'allenatore Claudio Neri, che è uno di quelli che veramente ci sente su questi ragazzi, la spronate ancora di più e insomma ne veniamo fuori abbastanza bene, insomma. Andiamo un attimo indietro, perché io sono curioso della storia del calcio Pestello, il nostro Spagnol di Montevarchi e tutto, però nel 2005 il calcio Pestello è stato rifondato e ha ripreso a fare il campionato ASPI, però io sapevo che non è la prima volta che il calcio Pestello partecipa comunque a un campionato di categoria, perché molti anni fa il calcio Pestello partecipò comunque alla terza per un paio di stagioni, se non erro. Sì. Raccontaci un po' come andò. Il calcio Pestello è stato fondato nel 1958, dove Don Luigi Savelli è stato lui quello che ha partecipato, faceva l'Under 21, il calcio Pestello faceva l'Under 21, ha vinto il campionato dell'Under 21, quelle annate lì nel 72, 73, 75, vincendo il campionato dell'Under 21, sarebbe stato tipo l'Uniores oggi, vincendo il campionato andava direttamente in seconda categoria. Passato in seconda categoria ci fu la fusione Badia-Pestello con il Badiagnano, siccome non si poteva, il campo non lo permetteva perché non avevano misure giuste, e fece una fondazione Badia Pestello, e fece la seconda categoria Badia Pestello. Quindi, volendo essere proprio esatti, il Pestello ritorna a fare campionati di categoria in questa stagione. Si spera di continuare. Si è fatto delle riunioni, tante riunioni, dove abbiamo messo dentro dei ragazzi giovani in cui giocano e fanno dirigenti, chi pensa a determinate cose come Matteo Monnani, segretario, per dire, abbiamo Matassoni Alessandro, il vicepresidente, poi abbiamo Barlacchi, cioè ragazzi dove sentano la società, la squadra e il posto, dove ci deve essere una continuità, che una volta cessato un po' noi più anziani, deve andare avanti il calcio Pestello. Questo è il nostro obiettivo, dove non ci dobbiamo fermare, insomma, se no non abbiamo fatto niente. E questo in effetti è un problema che si riscontra magari anche in tante associazioni anche del territorio, proprio il fatto di conservare, difendere il proprio orticello alla spada tratta, pur di non passare mai la mano, ma d'altra parte no. Se le cose si vuole che in futuro vadano avanti, ci deve essere una certa continuità di vedere oltre a quello che si sta facendo, una prospettiva avanti. Naturalmente i ragazzi ci devono credere, perché se no è inutile fare un'annata per provare e dopo no. Abbiamo deciso, penso che siamo tutti d'accordo, dove prima di fare questa decisione abbiamo fatto tantissime riunioni, ci siamo trovati d'accordo, ognuno ha il suo ruolo, abbiamo diverse persone in cui abbiamo messo determinati ruoli, chi pensa agli spogliatoi, chi pensa alle magline, chi pensa al campo, chi pensa all'ossa dirigenziale e tante altre cose. E se no non si va da nessuna parte, se non sei organizzato, più che non riesci a venire fuori, perché una o due persone da sole non fanno niente, e sicché ci vuole un gruppo dove ci credano. È inutile venire per dire non so, vengo domenica, poi si rivedono fratelli e domenica. No, ci deve essere un gruppo continuativo dove io possa avere fiducia di queste persone e siamo sicuri la cosa va avanti. No, è chiaro che una struttura rifondata e contemporaneamente ringiovanita amplia anche le prospettive, quindi dà un punto di forza in più a una squadra come Pestello e quindi anche a una visione a lungo termine. Però chiaramente ci saranno state delle difficoltà, mi immagino, e un po' ce ne avete già parlato, di nell'operare questo passaggio appunto da l'ANSPI al campionato di categoria. In questo caso volevo chiedere a Matteo, anche a livello di costi, quanto è più costoso sostenere un campionato di terza categoria? Quantomeno te lo aspettavi tanto o poco costoso, dipende da come è realmente? Allora, intanto ti dico che il primo sforzo, chiudi il discorso di Graziano, l'abbiamo fatto noi, perché già l'anno scorso a fine anno, cioè sto parlando di giugno 2016, era in ballo di fare il passaggio di categoria, queste riunioni fiume come diceva Graziano, però la squadra ancora forse non era pronta, quindi siamo presi l'ultimo anno di ASPI 2016-2017, lo abbiamo rivinto anche con un allenatore diverso, e a quel punto, quindi a distanza di un anno, giugno 2017 eravamo pronti, quindi è stata una maturazione, una fermentazione quasi, un parto. I costi, su questo gira un po' di leggende, ora fare i numeri, diciamo che la FIGC sta cercando di implementare anche la riscrizione delle squadre, perché la terza categoria è arrivata quest'anno con noi a avere solo 11 squadre nel girone di Arezzo, quindi se non c'eravamo noi erano 10, io penso termini minimi, per cui hanno rimesso delle risorse, delle agevolazioni per le squadre di nuova iscrizione. Noi siamo stati gli unici della provincia a cogliere questa occasione, e quindi ti dico che i prezzi si equivalgono quasi a quello di un campionato amatoriale. Giusto per dare un po' di indicazione, si sta poco sotto i 3.000 euro con l'iscrizione. Poi è chiaro che ci sono tutte le spese di gestione, ma quelle vanno in continuità con quelle che erano già nel passato, avendo la fortuna di avere un campo, non dico di nostra proprietà, ma insomma una forte collaborazione comunque con Don Angelo della Chiesa del Pestello. la vera sfida, secondo me, che deve affrontare la terza categoria è il rilancio del calcio FIGC, partendo dalle categorie più basse, che trova difficoltà soprattutto nell'ascolto delle altre società storiche, quelle 8-9 rimaste, è l'organizzazione, perché la FIGC sta venendo incontro per, tra virgolette, rendersi concorrente e competitivo nei confronti degli amatoriali, proponendo, come noi abbiamo colto, il discorso di giocare il sabato anziché la domenica, no? Perché magari i giocatori, quindi degli amatori, dicono andiamo, si gioca il sabato perché la domenica si sta con le mogli e le fidanzate. I professionisti o comunque i giocatori di categoria dicono no, si gioca la domenica perché è così, da che mondo è mondo. Quindi la federazione sta proponendo questa cosa, noi l'abbiamo colta, però non vediamo molta risposta nelle altre società. Anche un mese fa siamo stati chiamati per tempo, questo va ammesso, ma da una società che doveva venire a giocare contro di noi, chiedeva di giocare la domenica perché il sabato aveva difficoltà. È stato risposto chiaramente di no, perché da federazione, da proprio c'è un modulino da compilare a inizio anno, sabato, domenica, sabato barrato proprio con le croci. Poi chiaro, c'è anche un discorso organizzativo nostro per venire incontro a quelle che sono comunque sempre le esigenze della città di Montevarchi e del Montevarchi quando gioca in casa la domenica. Però è chiaro che avendo due calendari così diversi, con squadre molto meno nella nostra categoria rispetto magari a una Serie D, era inutile cercare l'intervallo e gli sfalzamenti perché difficilmente sarebbero riusciti, quindi abbiamo tagliato la testa e toro, ma in via secondaria, ripeto, proprio per anche per non andare a incidere con il Montevarchi Calcio. E proprio qui io volevo andare a parare sul fatto che voi abbiate scelto di giocare al sabato piuttosto che alla domenica, anche perché in effetti molti ragazzi che seguono la vostra squadra come tifosi o che addirittura giocano nella vostra squadra comunque seguono il Montevarchi. Io ne vedo svariati che vanno la domenica a vedere le partite del Montevarchi Calcio, e quindi diciamo è un gesto anche di rispetto nei confronti sia del Montevarchi Calcio che dei vostri tifosi e vostri giocatori, e questo dal mio punto di vista vi fa molto onore. Ma è proprio così, perché io me la sono immaginata così, ma è così? Sì, diciamo che il primo anno noi abbiamo deciso, abbiamo parlato insieme, abbiamo fatto una riunione, qual era la soluzione meglio possibile di poter affrontare il primo anno di FIGC, e niente, questi ragazzi hanno detto, cioè, insieme d'accordo insieme alla società, che in casa preferivano giocare il sabato. Abbiamo continuato per questa strada giocando il sabato, dove la gente risponde al Pestello, c'è molta gioventù vivace e i ragazzi vengono a vedere la partita, dove fanno il tifo, e si può dire la prima giornata abbiamo preso anche una multa, cioè la prima giornata di campionato, perché questa è la Montevarchina, prende le multe di tifo è la Montevarchina, hanno tirato un piccolo petardo, non in campo, lì sulla strada un petardo, 600 euro di multa, cioè una squadra, una società piccola come la nostra, si va a raccattare, si può dire, si va a raccogliere soldi, a battere cassa. Però funziona così, e d'altra parte non ci possiamo fare nulla. La gente viene, e anche sabato abbiamo avuto 130 persone, abbiamo fatto 130 biglietti. Noi abbiamo messo un piccolo, si può dire, contributo di biglietto, non è che abbiamo messo 6 euro, 8 euro, abbiamo messo 3 euro, è una cosa simbolica, dove ci facciamo anche una piccola lotteria, sicché la gente viene un po' anche più volentieri, insomma, cioè voglio dire, magari andare a vedere la partita un Aspi, si va a vedere una terza categoria, si va a vedere il Pestello, magari se non viene a vedere il Pestello viene a vedere quell'altra squadra, cioè all'ipotesi è così. Ed in effetti quello che mi sembra di aver visto in passato, quando il Pestello giocava nei campionati amatoriali, e forse adesso è la stessa cosa, è una grande passione nei confronti di questa squadra, di questa realtà, di questo quartiere di Montevarchi, da parte dei propri sostenitori, che io non lo so se sono effettivamente proprio tutti del quartiere o se qualcuno viene anche da fuori, però mi sa che un po' il bacino si allarga e questa passione in qualche modo il calcio Pestello riesce a trasmetterla, riesce a farla passare ai propri sostenitori, oppure c'è un qualcosa di diverso rispetto alla passione? Tra l'altro, se posso permettermi di dire una cosa prima che rispondiate, descriverlo anche a chi non è qui di Montevarchi: dal centro di Montevarchi si accede al quartiere di Pestello e c'è una scritta su un muro gigantesco Gran Duato del Pestello. Cioè, da un punto di vista identitario, se già noi abbiamo inventato il neologismo montevarchinità, o perlomeno lo utilizziamo, e quindi cerchiamo di localizzare il più possibile un qualcosa che poi magari è comune a molti altri, poi dentro Montevarchi esistono anche tante determinate identità ulteriori, per cui c'è il Giglio, ad esempio, c'è Levanella, e anche quella si divide tra l'altro, e poi c'è il Gran Duato di Pestello. Quindi, nel senso, è molto interessante secondo me capire anche com'è che c'è questo forte senso di appartenenza che poi trova sfogo nella squadra stessa, un po' come succede poi a più ampio raggio in Montevarchi e quindi nella nostra montevarchinità. E siamo tutta gente del posto, e ragazzi, giocatori, sono tutti ragazzi del Pestello, dove convolgano più gente possibile, perché sono dei ragazzi che veramente, cioè, se non ci stai insieme non riesci neanche a capire la cosa come funziona, perché quando è nato questo calcio Pestello dal 2005 siamo cresciuti anno per anno, dove il primo anno prendevamo 4-5 gol a partita per potersi divertire. Capiamo dove si sbaglia per poter divertirsi tutti, insomma. E niente, abbiamo inserito altri ragazzi sempre del posto, dove hanno portato dietro magari quello che prendeva, che non giocava poco, per dire, anche i ragazzi di Montevarchi, per dire, che giocava nell'Unione, se magari, e sono venuti a giocare con noi, dove i ragazzi giovani fanno la differenza, insomma, cioè vi portano dietro altre amicizie. E abbiamo fatto un gruppo, questo è un gruppo dal 2005-2006, è il solito gruppo, dove probabilmente c'è qualche innesto ogni anno, cioè è naturale, se vuoi migliorare per poter andare avanti, cose per poter divertirsi ancora di più, e siamo riusciti a fare un gruppo meraviglioso, ma credetemi, è meraviglioso. Però Fumino, noi l'abbiamo chiamati le Spagnol di Montevarchi, in realtà forse anche un po' l'Atletico Bilbao. Sembra più il Bilbao, ci stavo appunto pensando a questo parallelismo con le squadre dei Paesi Baschi, che proprio per scelta fanno giocare nelle loro fila solamente calciatori che provengono dai Paesi Baschi, e sembra un po' ritrovare questo spirito all'interno del calcio Pestello, magari non proprio al 100%, però sembra un po' una cosa che mi preme molto col cuore di fare, dedicare questa puntata anche alla memoria di due persone molto importanti per la rinascita del calcio Pestello, vale a dire Luciano Redditi e Mario Rotondi, che insieme a Graziano prima e poi anche insieme a Matteo sono stati due capisaldi della rinascita di questa squadra. E quindi, se oggi questo c'è, questo presente funziona, va avanti, auguriamoci vada avanti all'infinito, è anche grazie all'impegno di persone del quartiere che tanto bene hanno fatto per questa squadra. E quindi questo proprio mi premeva ricordare anche in sede di registrazione, perché effettivamente, avendoli personalmente conosciuti entrambi, erano persone di un grande valore. Non possiamo chiedere un applauso in radio, però ecco, è secondo me importante, ma è importante anche da un punto di vista molto sociale, diciamo, proprio per quello che prima il presidente diceva, vale a dire cerchiamo di implementare nell'organico ragazzi giovani, perché non c'è niente da fare, il futuro è dei giovani, non è di chi più giovane non è, e quindi più giovani si appassionano, più giovani iniziano a portare avanti un discorso, e più è semplice portarlo davvero avanti, e altrimenti poi finirebbe tutto. Proprio a questo proposito, tra gli adempimenti da fare nel calcio FIGC c'è anche quello della richiesta della forza pubblica ogni volta, prima di ogni incontro. Per cui, prima di iniziare il torneo, mi sono recato personalmente col presidente, cioè ha ricevuto solo me perché loro erano andati via. Sì, sono stati al vice questore qui della polizia di Montevarchi, dottor Proietti, che era molto propenso nell'idea: ok, siete una nuova società, però non dimenticate mai di coltivare il ruolo del sociale, perché ovviamente dove si fa sport meno si delinque. E incentivava tantissimo anche una collaborazione appunto con Montevarchi. L'ha accennato prima Graziano, ovviamente gran parte dei ragazzi che giocano con noi chiaramente sono formati nel settore giovanile del Montevarchi. Attualmente abbiamo un prestito in corso, un ragazzo di 18 anni e sta al Pestello, però è di fatto di proprietà del Montevarchi, per cui piano piano è chiaro che noi abbiamo anche bisogno di queste piccole forme di collaborazione necessarie che si uniscono diciamo a quelle degli sportivi. Poi per quanto riguarda le origini, sì, una realtà tipo basca, però i nostri colori richiamano le realtà del Barcellona e della Catalogna, infatti abbiamo anche la bandiera della Catalogna. Sì, comunque questo forte spirito identitario direi che ci contraddistingue senz'altro. Tra l'altro, a proposito di spirito identitario, visto il microfono è davanti a te, lascialo lì, perché vorrei tornare a parlare di montevarchinità, anche di pestellesità, diciamo così. E siccome il nostro amico Matteo è originario di là dalla Gruccia, e siccome negli anni del liceo spesso ci siamo punzecchiati perché Matteo era, giustamente, è lecito, un tifoso della San Giovannese, però incontrandosi con la realtà di Pestello, Matteo è entrato anche in contatto probabilmente con quella che si può definire la montevarchinità, perché in un modo o nell'altro ti sei trovato molto bene, anche probabilmente a livello di modo di vedere la vita, e poi probabilmente non è così distante, essendoci 2,5 chilometri di fatto di distanza da Montevarchi da San Giovanni. Raccontaci un po' la montevarchinità vista da un san giovannese, mettiamolo così. Tiri fuori questo sasso. No, e te l'avevo detto in serie di presentazione, te l'avrei tirato fuori. Sì, no, mi fa piacere. È come tutte le cose della vita, ti ritrovi per situazioni, per percorso, a frequentare certi ambienti e ti soffermi indipendentemente chiaramente da qualsiasi tipo di confine. È 8 anni che ho sposato questa associazione, questo progetto, questa storia, prima di tutto con un gruppo di amici, ripeto, è una cosa casuale, anche se li vai a cercare, è stato così, e niente, lo porto avanti con molta passione, e secondo me c'è spazio per tutto, c'è spazio per mettere in dialogo queste cose. Poi, come sai, non è la prima volta che partecipo a una questione di Montevarchi, a una realtà di Montevarchi. Mi trovo e spero di trovarmi sempre bene, ecco. Insomma, il quasi neo pestellese Matteo Monnani, aspettiamo soltanto ti trasferisco ufficialmente a Montevarchi per venire a vedere una partita ai Brilli Peri, che prima o poi ti ci devi portare. Intanto dicono che abbia la pestellesità onoraria, abbia onore, come la cittadinanza, sì. No? Come si dà in alcuni casi. Comunque te sei stato anche giocatore del Pestello? Sei ancora attualmente giocatore oltre al tuo ruolo in dirigenza, quindi ecco, lui non fa parte diciamo della parte basca, il Pestello dei pestellesi, però lui diciamo è uno degli extracomunitari, diciamo così. Sì, e già 8 anni è con noi, si è messo a nostra disposizione praticamente, dove lui con le sue capacità da l'abbiamo messo segretario apposta perché è abbastanza pignolo e vuole fare le cose molto precise, dove a noi qualcosa ci manca su questo, sicché ci fanno piacere queste persone averle accanto, perché a sbagliare una virgola sa benissimo e c'è le multe, c'è i richiami, insomma, e con lui penso di stare tranquillo. Su queste cose è abbastanza pignolo. Comunque Matteo sarà uno dei dirigenti diciamo di nuovo corso. Questo senz'altro, lui fuori di dubbio, perché è un ragazzo molto molto disponibile, è uno che riesce a fare le cose nel miglior modo, e dove le fa le cose lui non ci rimettiamo le mani, sicché siamo tranquilli. A proposito però del nuovo corso, mi viene da farvi una domanda anche piuttosto tipica quando si parla di una situazione simile. Guardando a dei cicli, ora è un po' ampio dire dove vedete il calcio Pestello da qui a 10 anni, però diciamo da qui a 5 anni, qual è l'augurio da un punto di vista societario che avete da qui a 5 anni, sia a livello di risultati che anche a livello più o meno di mantenimento della categoria, della struttura, non so, della squadra? Per quest'anno abbiamo detto senza fare tante, tante trasformazioni, puntare a tante cose, cioè giochiamola senza, entriamo sulla testa a FGC, cioè che è una cosa molto importante anche per i ragazzi, sembra un discorso da dire amatoriale, e FGC c'è sempre qualcosa in più, se anche, cioè, capisci, dove le squadre sono abituate a combattere, magari in campo amatoriale facevi 2 o 3 gol, magari, cioè, e la partita era già finita, mentre là se sbagli per dire 1 o 2 occasioni non fai gol e loro per una piccolezza ti fanno gol, è difficile rimarcare perché sono talmente abituati, è un altro gioco dove è più combattente, insomma, cioè voglio dire, e noi bisogna abituarsi a avere una mentalità per poter entrare su questo meccanismo qua. Arriviamo adesso ad un tasto extra campo, perché io scorrendo molto volentieri le pagine del volume che ci avete portato in visione, Il Ruggito del Leone, che parla appunto della vostra storia dal 2005, quindi anno della rifondazione, scorrendo queste foto, oltre a vedere delle bellissime foto di festa fra i giocatori, fra i dirigenti, ci sono delle belle foto di una discretissima cornice di pubblico, appunto i 130 paganti dell'ultima partita che prima ci hai... Sì, sono quelli che non mancano mai, veramente, tutti sanno dove noi, dove giochiamo in casa, c'è sempre il pubblico, cioè pubblico, le 100 persone, 80, 90, ci sono sempre. Quando abbiamo fatto il playoff siamo arrivati a 250 persone, nella finale, 250 persone di biglietti. Per tutti questi spettatori che generalmente, mediamente, vengono a vedere le vostre partite, avete voglia o magari avete nelle vostre intenzioni di in qualche modo ampliare un po' lo stadio, quello che accoglie le persone che vengono a vedervi, in quanto nell'ultima finanziaria c'è ben scritto chiaro che ci sono degli sgravi fiscali, ci sono delle agevolazioni fiscali apposta per le società sportive che abbiano intenzione di ristrutturare il proprio stadio. Sull'email della società recentemente mi è arrivata appunto questo tipo di comunicazione dettata dal ministro dello sport. C'è solo un problema su questo piano qua, che bisogna avere chiaramente un progetto che è in sede comunale. Noi al momento non l'abbiamo, per cui a me mi era presa anche la curiosità chiaramente di andare a vedere e di dire, però devo dire che bisogna un attimino organizzarci. Magari se ripassa questa occasione, credo, lo spero, ma per lo sport del nostro paese in generale, visto anche la figura cascina che andiamo a fare andando ai mondiali, potremo cogliere questa occasione. È chiaro, c'è da mettere una sinergia di istituzioni diverse. Al momento posso dire che la federazione ci sta dando una mano di supporto per le cose forse che stanno dietro, in quanto ad esempio è fatto obbligo da un anno a questa parte che ogni campo sportivo debba essere dotato del defibrillatore automatico, del famoso DAE. Noi ne disponiamo, tra l'altro da ormai un paio d'anni, dovremmo cambiare le batterie e rifare il corso di rinnovo per le certificazioni del personale in grado di operare, chiaramente. La federazione mette a disposizione una convenzione con un'azienda che faccia dei corsi di promozione, insomma, fortemente scontati. Cosicché anche un rifacimento del campo, sempre la federazione mette a disposizione un'altra azienda della zona, ovviamente, in grado di fare consulenze e sopralluoghi gratuiti. Questo è già qualcosa, secondo me è già un segnale, a parte comunque della federazione, quindi diciamo comunque i soldi vengono dal CONI oppure gli investimenti delle stesse società, per cui mi sembrano già piccoli buoni segnali. Per qualcosa in più dobbiamo vedere, anche pensare, qualche anno fa buttammo l'occhio casualmente per qualche tribuna in ferro magari all'asta, però poi scatta il problema del collaudo, insomma sono spese, anche perché le cose vanno fatte direi a modo. È chiaro, poi il nostro campo si colloca in una posizione di Montevarchi che dovrebbe essere sull'argine naturale, cassa di espansione del torrente che passa lì vicino, per cui insomma ci sarebbe da vedere, però sicuramente una sinergia con l'istituzione comunale in primis magari in futuro potrebbe essere possibile e potrebbe giovarci sicuramente qualcosa di positivo. E del resto, nel senso, è già positivo che la federazione lanci dei segnali, poi questi segnali bisogna saperli tradurre, trasformarli. Tra l'altro il campo di Pestello è anche a nome di Renato Pieraccioli, il che riguarda anche in maniera sempre attuale anche l'Aquila Montevarchi, anche la città di Montevarchi, no? il campo è intitolato a questo ex calciatore del Montevarchi, scomparso diciamo tanti anni fa in una maniera un po' misteriosa, mettiamola così, mai troppo chiarita. Quando scomparve era allenatore, non era più calciatore, mi sembra. Però ecco, insomma, il Pestello comunque ha un campo intitolato ad una persona che a Montevarchi, da un punto di vista sportivo, è legata ancora in maniera abbastanza salda. Alla quale, se non erro, è anche dedicata la tribuna coperta dei Brilliperi. Quantomeno c'è una targa, non so se è proprio esattamente dedicata, comunque potrebbe anche essere, come dire, un virtuale trade union tra il campo dell'Aquila, il campo del Pestello, e perché no, diamogli una bella rinnovata a tutte e due, no? E così non sarebbe male. Comunque questa federazione lancia i segnali, a Montevarchi si potrebbero raccogliere o meno, però voi fisicamente in questa federazione ci sarete andati una volta, voglio dire, forse anche più di una. Raccontateci un po' quali sono state le vostre sensazioni comunque dalla gestione di una squadra in un campionato ANSPI, passando per la categoria e quindi dovendo andare in federazione, in Lega Nazionale dilettanti, a fare i vostri interessi. Cosa avete trovato, cosa avete visto? E soprattutto, ce l'hanno la foto di Tavecchio dietro come il Presidente della Repubblica? No, anche... Cioè, diciamo che come tutti gli enti è molto strutturata. Si potrebbe veramente aprire... ci sarebbe da fare una lezione. Intanto, generalmente, diciamo che a livello regionale c'è il CRT, Comitato Regionale Toscana, che ha sede centrale a Firenze, e poi ogni provincia ha la propria delegazione, quindi la nostra di riferimento è chiaramente la delegazione di Arezzo. Allora, ad Arezzo la delegazione provinciale ha sede in zona Villa Santa Maria, ma al contrario del nome è comunque un locale molto, molto semplice, in un seminterrato, molto cordiali e disponibili, devo dire, almeno nei nostri confronti, per dare una mano per qualsiasi tipo di adempimento, sempre rintracciabile anche per telefono, dove si fanno delle piccole riunioni. Sono stato una volta, non solo per questioni di tesseramento, ma anche per... una volta ci fece addirittura il corso da allenatore, perché con l'allenatore di base, insomma. Una volta invece nella prima riunione stagionale con tutte le altre società, che non essendo molte ci entravamo abbastanza bene, una piccola saletta riunione dove venne appunto anche il presidente del CRT, del Comitato Regionale Toscano, a illustrarci quelle che erano le novità anche organizzative di cui ho parlato prima, cioè del fatto che la federazione, il calcio, se vuoi ripartire a livello amatoriale ma di Lega, di federazione, di FIGC, deve cambiare proprio le proprie impostazioni di giorni e di orario di gioco innanzitutto. E poi c'è questa sede a Firenze dove siamo stati per portare i tesseramenti, dove prima faceva riferimento il presidente, mi sono recato anche perché abbiamo fatto appello nei confronti della decisione della multa per i 600 euro. Quindi c'è sia una parte burocratica amministrativa con uffici che raccolgono il materiale, un sacco di carta con tutti i giocatori tesserati, società tesserate, ma anche una mega sala, diciamo, riunioni in quella un po' stile mega presidente di Fantozzi, dove chiaramente c'è un organismo collegiale composto da 3 avvocati che quindi ti danno la possibilità di replicare a quelle che sono le decisioni del giudice sportivo e prima quindi ancora dell'arbitro, e niente, tutta una questione abbastanza seria e solenne. Devo dire che comunque la differenza rispetto all'amatoriale si vede e si sente, e da una parte è anche meglio così, perché è giusto che ci sia comunque, per quanto paghiamo ovviamente, organi terzi di giustizia e un certo aplomb ovviamente di serietà e di rispetto. Se poi non lo so, insomma, se sia efficace o meno, questo non c'è dato, non lo possiamo cogliere perché non siamo i loro utenti di fatto, però le cose funzionano. Sabato scorso, anche con il rapporto con la federazione degli arbitri, con l'associazione, con l'AIA, c'è un pronto intervento. L'arbitro si era scordato di venire perché pensava fosse domenica, la partita invece era sabato, nel giro di mezz'ora c'era un arbitro sostitutivo. Insomma, tutte cose che nell'amatoriale probabilmente non potrebbero avvenire, per cui siamo contenti, consci anche di aver sbagliato con il fatto appunto della sanzione che abbiamo preso. Le multe forse sono un po' alte, ma lì non è un problema tanto di chi attua, ma chi ha deciso a monte, perché tenere lo stesso rapporto di sanzioni a una squadra di Serie D, a una di terza categoria, è chiaramente imparziale, però loro si ritrovano a applicare queste norme e non possono fare diversamente, d'altronde, altrimenti insomma si perderebbe tutte quelle certezze ci sono fino ad ora. E al di là del pronto intervento, della cosa che vi è capitata per l'appunto l'ultima domenica che avete giocato, il rapporto appunto con l'arbitro, perché c'è un po' il mito dell'arbitro della categoria amatoriale, vale a dire quello che magari prima arbitrava in FIGC e poi ha smesso, oppure quello che mai ha arbitrato in FIGC ma si sente il collina de Noantri a fare l'arbitro nei campionati amatoriali. Ma gli arbitri che adesso vi capita di incontrare nelle partite in FIGC, comunque tecnicamente, atleticamente, c'è differenza? Sono migliori? Sono tutti ragazzi giovani, giovanissimi, in cui qualcuno cercato non abbia neanche 18 anni. Hanno tutto da imparare, hanno dietro delle persone seguite, perché tutti i sabati, cioè o tutte le domeniche dove andiamo a giocare sia in casa sia fuori casa, ci sono quelli che i visionatori d'arbitri, dove ho assistito anche in casa quando l'altro sabato si fece entrare, sono un visionatore, posso entrare? Sì, certo. Andò dentro agli spogliatori dell'arbitro e gli fece si può dire una bella sciacquata di capo, dove aveva sbagliato, sentivo i berci, veramente doveva migliorare, perché le devono correggere subito certi sbagli, dice. Quando uscì ci si mise a parlare e disse no, noi dobbiamo correggere subito dove sbagliano, perché sono ragazzi giovani, sono ragazzi giovanissimi, sono ragazzi di 20 anni, 18, sicché non hanno, anche quello ci fece la multa, si può dire, scrisse una cosa che poi magari si è visto che sbagliò, insomma che scrisse un po' di troppo, però oramai la bella è scritta e certamente sono più preparati, perché nel campo materiale c'è persone dove smettono di giocare, vanno a fare l'arbitro, dopo una o due volte gli danno il fischio in mano, e dopo dove c'è gli sbagli, dove c'è d'altra parte uno può ringraziare gli arbitri, senza arbitro non tu giochi, sicché cioè voglio dire a volte sbagliano anche loro, dove sbaglia un giocatore un rigore, dove sbaglia il portiere una parata, cioè, sicché bisogna essere sempre un po' meno ignoranti, si può dire, nei suoi confronti. Bisogna prenderla, certo, in sostanza con filosofia, alla fine giovani sono e hanno da imparare, e comunque è la terza categoria, e quindi non è che c'è effettivamente collina, ma c'è un collina quando iniziò ad arbitrare, che anche lui sarà stato uno che le prime partite avrà sbagliato qualcosa, e sbagliava poi anche quando era più bravo, quindi figuriamoci. Volevo aggiungere una cosa però, rispetto all'amatoriale abbiamo notato anche una differenza del rapporto delle altre squadre con gli arbitri. Paradossalmente può sembrare quasi da far tremare questa cosa, ma c'è molto più rispetto, perché avere sempre quei 2-3 arbitri, 4 per anni e anni, si crea un rapporto quasi del tu, no? Con tutti i giocatori anche delle altre squadre, e quindi sempre cacciare, confusioni, mentre a sto giro io l'ho notato davvero con le squadre ospiti, e poi noi tutto sommato siamo sempre stati una squadra per benino, mi verrebbe da dire, molto rispetto, che il ragazzo venga a arbitrare abbia 18 piuttosto che 20-30 anni o quanto può avere, anche il giocatore ne ha più di 30, sempre molto con rispetto. Poi chiaro, magari le partite hanno più cattiveria a livello agonistico, ma ecco, la rabbia è più sfogata nell'avversario che non, tra virgolette, nell'arbitro. Questa è una cosa che abbiamo notato fin dall'inizio, e segna il passo con la categoria amatoriale. E Matteo, adesso via, te che sei non solo il segretario del calcio Pestello, ma sei pure un calciatore, ti tocca la domanda di rito che facciamo a tutti i calciatori o ex calciatori che arrivano nei nostri studi, vale a dire, hai una scaramanzia particolare prima delle partite? Ci hanno raccontato di calzini alla rovescia, mutande sudice, magliene all'incontrario, insomma, e accampatoi, docce prima della partita, ce le hanno raccontate di cotte e di crude, ma la tua, se c'è, qual è? Ho personalizzato gli scarpini, un numero che volendo potevamo tenere anche quest'anno. Ultima novità della FIGC da quest'anno, anche fino a terza categoria si può mettere i numeri che vuoi, insomma dalla Serie D in giù, l'avete visto anche col Montevarchi, i numeri liberi. Noi chiaramente per esigenze di budget abbiamo rifatto i tradizionali completi dall'1 al 18, però il mio numero è 27, su tutti gli scarpini gioco esclusivamente per le partite con le Kaiser vecchio stampo bianche e nere, sia a 13 che a 6, e in entrambe c'è cancelletto 27. Questa è la cosa che mi porto dietro da quando sono nel Pestello, perché nell'amatoriale c'era già la possibilità di mettere il numero libero, e quest'anno nel piccolo l'ho trasportato negli scarpini perché è una parte di me e mi contraddistinguerà finché non smetterò di giocare, e spero il più a lungo possibile, perché sto ancora bene nonostante i 32 anni. Ma... esordio in terza categoria a 32 anni, giusto? No, io in realtà porto dietro me un po' di esperienza precedente in un'altra realtà, Terranuova. È nata piccolissima la Real Terranova, saluto tutti quelli che hanno giocato nel Real Terranova tra i 22 e i 23 anni, però insomma questa sicuramente è la più lunga nel calcio Pestello, non sono mai stato 8 anni in altre società, ecco. E appunto parlando nel tempo, nel corso delle registrazioni delle nostre puntate, ci hanno raccontato anche delle scaramanzie, ad esempio di un grande presidente del Montevarchi scomparso e compianto, Vasco Farolfi, che aveva varie cose a cui era legato prima, durante le partite. E Graziano Dini, in qualità di presidente, qual è la tua scaramanzia? Io non ho tante scaramanzie, non mi riesce a stare fermo dove mi mettano in panchina, però mi dice Monnani, Matteo, ma ce la fai a stare fermo in panchina? Ma sì, ce la fa, però dopo 10 minuti mi tocca alzarmi, mi tocca andare in giro per il campo perché sento molto la partita e non riesco a stare fermo. Benissimo, allora siamo giunti alla conclusione a questo punto di questa puntata molto pulp. Molto pulp e contemporaneamente anche interessante, con il nostro Espanyol pure Atletico di Bilbao di Montevarchi, quindi insomma la seconda squadra della città di Montevarchi. È stato un piacere, un onore ascoltarla nei vostri racconti, nelle vostre esperienze. Io ringrazio anzitutto il nostro regista, che è Quentin Tarantino, e per un attimo me l'ero dimenticato, però è venuto subito. Ringrazio anche il pubblico di stasera, perché abbiamo il noto dottore, il committente di un'altra trasmissione nuova ma prossimamente di punta per Radio Big World. Il committente ha una domanda. Allora, arriva il committente con una domanda. Buonasera a tutti, io sono il committente e tratto argomenti che parlano di committenze. Voi avete parlato molto seriamente della vostra identità, essere pestellesi, il graffito all'inizio del quartiere. Ma se il Montevarchi vedesse una committenza, Montevarchi Calcio o anche San Giovannese Calcio, per riprendere, di valorizzare i loro giovani per poi riprenderseli, cosa direste? Darebbe risalto anche a voi, perché comunque vi darebbe la possibilità di avere una continuità senza molti costi, tra l'altro. Che rispondereste voi a un'offerta così, a una committenza così? Ti dirò che noi con il Montevarchi Calcio stiamo già collaborando, che abbiamo già preso un prestito da Montevarchi Calcio, dove ce l'hanno dato a noi, e sicché questo discorso noi ci fa molto piacere, perché essendo una squadra segnata in FGC abbiamo bisogno in cui dove appoggiarsi in una società, che Montevarchi Calcio ci ha aperto le porte da poter dire se anche se ha bisogno di qualcuno in futuro e poter parlare, andiamo a parlare in sede. Sì, poi oltre a quello che ha detto il presidente, su questo voglio aggiungere che quello che sarebbe importante, e lo dico da San Giovannese, è acquisire la mentalità del giocare per una maglia, per un quartiere. Quindi ben venga, perché credo che noi ci potremmo trovare molto bene ad insegnare a ragazzi disposti non solo a venire a fare esperienza, ma anche a calarsi veramente in una realtà dove ci si attacca alla maglia. Poi possono risfruttare nel ritorno nella società di Montevarchi per coinvolgere chiaramente il Montevarchi, visto che si parla anche di crisi di bandiere, no? Il nostro calcio. Quindi una scuola di formazione anche in questo, perché non è semplice, anzi forse è la cosa più difficile, perché il calciatore deve avere i piedi buoni, ma si vede sempre di più come anche la testa conti. Conte la testa per rispetto del compagno, guardate il Borussia Dortmund, Aubameyang, quel giocatore sta spaccando tutto, pare, insomma quanto dice la stampa. Per cui è un recupero di valori e ci terremo davvero tantissimo, e penso sia anche il nostro scopo. In chiusura di trasmissione mi unisco ai ringraziamenti di Julian per il nostro regista di stasera e ritorno a ringraziare Stefano Neri che gentilmente ci concede gli spazi per registrare all'interno della Galleria San Lorenzo. Ringrazio infinitamente i nostri ospiti di stasera, Graziano Dini, presidente del Calcio Pestello, e Matteo Monnani in qualità di calciatore nonché segretario del Calcio Pestello. Grazie per aver partecipato. Io volevo salutare chi ci aiuta, praticamente i nostri sponsor che sono 3 o 4, dove ci danno una grossissima mano per poter andare avanti. Poi i miei collaboratori, dove non posso fare nome perché sennò andiamo a letto alle 1, che sono meravigliosi, dove tutti ci aiutiamo, e sicché devo ringraziare tutti con il cuore. Forza Calcio Pestello. Sì, mi unisco ai saluti del presidente, e io li inoltro chiaramente a tutta la squadra, alla componente tecnico, quindi dal mister a tutta la rosa, che prima di essere una rosa di compagni di squadra siamo amici prima di tutto, per cui un saluto a tutti i leoni giallo rossi. Bene, un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e vediamo appuntamento alla prossima puntata con il volo dell'Aquila alla ricerca della Montevarchinità. Grazie, buonanotte. Ma chi ci sa in regia stasera? Io farei il committente di questa. No, il commissionario. Voi siete professionisti, ragazzi. Professionisti strulli, siamo. Strulli patentati. No, diteci un regista Evi Garba, dai. Il committente. Di film, un regista di film. Quentin. No, è vero, tanti non siamo. Un'intervista pazza stasera, dai. Poi, vada! Stasera parliamo di Calcio Pestello, una realtà del territorio, qualcosa che si è evoluta dal calcio amatoriale e è diventato un calcio FGC. È così e basta, non è una mia idea, è un maledettissimo dato di fatto, per essere un po' pulp. No, Michele, quando c'è qualcuno che parla non aprire la porta. Perché se no fa rumore e si sente. Il committente sta cercando di ci sabota l'Aquila. Sabotare. Ah, no. Dicevi così per far entrare lui. Se no congela. Per andare anche senza ciubotto. Ma noi tanto si parte, si va a nastro, ci si ferma mai. Questa parallelità, cioè. Parallelismo. Giocano. Che giocano, cazzo. E sparano. Sparano le bombe Molotov. Sto 100 euro di multa, raga. Appunto, tipo, dice anche pedarti in casa. Vabbè, rifare. Profumo dell'erba. Committente, per favore, quando si registra. Allora, mi dispiace per chi ci ascolta e chi ci ascolterà, ma è chiaramente per una questione di rispetto, continuo a essere un tifoso di quelli di là della Gruccia, ma è una questione proprio d'onore. Probabilmente a parti invertite avreste fatto lo stesso. No, però comunque volevo precisare, è un bravo ragazzo alla fine, dai. Cioè. Grazie. Magari racconto quando ho fatto i ricorsi, questa multa si è fatto ricorso. L'avevi vinto anche? Sì, sì, era abbassata a 500, era in 1000. Dov'è la sede? È a Coverciano, solo dietro, da via Gabriele D'Annunzio. Da centro. Andiamo a passare la foto.